La vita in un film di Franco D'Assisi. Buonasera. Oh, buonasera, signor Presidente. Bello qui. Hai fatto tu? Sì. Sapesse con quanti sacrifici. Ah, a proposito, volevo restituirle questa. Perché? Perché non voglio più essere niente. Non voglio più essere cittadino, non voglio più essere italiano. Solo Mario. Mario, che ti abbiamo fatto? Mi avete fatto credere che avevate bisogno di me, che potevo partecipare. E invece mi avete solo preso in giro. Il gioco è truccato. Solo per te. Il gioco è truccato, diceva Fabio Volo nella Febbre di Alessandro Dalatri, 2005. Buonasera da Franco D'Assisi, questa è La vita in un film, il nostro programma che tutti i giorni racconta di quei film nei quali abbiamo visto un pezzo della nostra vita. Oggi, come avete sentito dalla clip che vi avevamo proposto, abbiamo scelto un tema che è quello della generazione dei trentenni, di cui il cinema italiano negli ultimi anni ha ragionato tanto, ha parlato tanto, ma con un taglio un po' diverso, meno votato al piangersi addosso, meno votato a raccontare la sindrome di Peter Pan. Anzi, quello che vogliamo fare stasera è ragionare con voi su quei film italiani, e La Febbre è uno di questi, che hanno raccontato un'Italia dei giovani che funziona, un'Italia di giovani italiani che sono meglio del paese che li ospita. Avremo fra poco ospite Alessandro Dalatri, il regista di questo film, La Febbre. Io vi ricordo che a questa trasmissione, La vita in un film, potete intervenire in diretta all'800 24 00 24, mandare un sms al 349 238 6666 e vi ricordo anche che i primi tre ascoltatori che interverranno per raccontarci in quale film, su questa tematica ovviamente, si sono rivisti o hanno rivisto anche solo un pezzo del loro percorso, ebbene, per i primi tre ascoltatori, dicevo, che interverranno, ci saranno degli splendidi biglietti per andare al cinema, più che splendidi, molto utili, un carnet con cinque possibilità di intervenire al cinema e altri biglietti per poter andare a godersi la magia del grande schermo. Dicevamo quindi La Febbre, 2005, Alessandro Dalatri, regista fra i più talentuosi che il nostro cinema ci offre, va a Cremona e gira questo film che racconta della storia di un giovane, appunto, Fabio Volo, un ragazzo poco più che trentenne che insieme agli amici si mette in mente un'idea meravigliosa, quella di trasformare un vecchio capannone in un locale. È un'idea di quelle che arrivano con tanto entusiasmo per questi giovani, ma pian piano Mario, appunto, si scontrerà con una mentalità imperante, con i vincoli della burocrazia, con chi non crede in lui, con chi non crede in loro, nei giovani, appunto, di quell'età, e questa possibilità pian piano sfiorirà, perderà appunto tutto il suo entusiasmo. Andiamo ad ascoltare adesso un altro passaggio del film, quello in cui con una certa sufficienza il giovane Mario viene trattato, diciamo così, da un superiore in ufficio come se fosse un ragazzino al quale raccontare delle storie. Un giorno in un piccolo paese di montagna giunse un equilibrista di strada. Tese la corda su un profondo dirupo e tutti gli abitanti accorsero a vedere. Sarebbe bastato un piccolo passo falso e si sarebbe sfracellato sulle rocce. E lui, piano piano, passo dopo passo, raggiunse l'altra parte. Tutti applaudirono l'impresa. A quel punto l'equilibrista avvicinò uno del pubblico e gli chiese: «Lei crede che io sia capace di rifarlo portando una carriola piena?» E il tizio rispose: «Sì». «Bene, allora entri nella carriola». È entrato? La curiosità di Fabio Volo, sempre molto divertente questo passaggio, è entrato, ma insomma dimmi qualcosa concretamente. Alessandro Dalatri in collegamento qui alla vita in un film dal Fiuggi Family Festival che si sta svolgendo proprio questa settimana, che si concluderà nel prossimo weekend e di cui Alessandro è il presidente della giuria. Buonasera Dalatri, come stai? Buonasera a tutti voi, bene bene, come sentite qui dal rumore di sottofondo, c'è una sala gremita che si sta svuotando in questo momento, grande partecipazione qui al Festival di Fiuggi, mi hai fatto venire i brividi riascoltando i dialoghi di, della febbre. Beh sì, c'è tanta radio nel cinema, noi ne siamo convinti da tanti anni qui a Radio 24, eh? Cioè il cinema e la radio sono molto amici, danno emozioni un po' nella stessa maniera. Alessandro, dicevamo, tu adesso sei impegnato lì a Fiuggi, stai tra l'altro per cominciare a lavorare anche al tuo nuovo film, se non sbaglio. Sì. Ecco, quindi un momento molto intenso. Allora ti abbiamo rubato qualche minuto, però ci sei sembrato il testimonial giusto per parlare di questo. Io ricordo intanto ai nostri ascoltatori il numero di telefono 800 24 00 24 per poter anche magari fare una domanda ad Alessandro Dall'Atri. La prima te la faccio io, però. Da questo film si ha quasi la sensazione che gli italiani, soprattutto quelli giovani, quelli appunto quei trentenni di cui ogni tanto se ne parla come dei bamboccioni, ha detto qualcuno, come dei ragazzi affetti da sindrome di Peter Pan, ha detto qualcun altro, ebbene, siano in realtà molto meglio dell'Italia. Assolutamente sì. Io trovo che uno dei problemi più grandi di questo paese è proprio il mancato riconoscimento del talento, no? È un freno bestiale, perché non dà possibilità di crescita né ai giovani singoli, ma neanche alla società che ci circonda. Io viaggio molto per lavoro, con i festival, con la pubblicità, e ogni volta provo questo grandissimo senso di frustrazione nel vedere le altre società occidentali, parlo di quelle più vicine a noi, ma anche quelle oltreoceano, vedere quanto spazio c'è al talento e soprattutto alle energie dei giovani. E invece da noi, insomma, sembra non essere così, fortunatamente, non sempre, certo le eccezioni ci sono, ma c'è una mentalità imperante, una sorta di tappo contro la quale si scontra appunto l'entusiasmo molto spesso e anche la preparazione dei nostri giovani. Allora, prima di tornare ad Alessandro Dall'Atri, abbiamo già delle telefonate in linea e cominciamo con Rocco da Como. Buonasera Rocco. Buonasera. Allora, c'è un film nel quale appunto hai visto un po' questa, magari anche tu, a delusione per questa sorta di cappa che evita la lievitazione dei talenti dei giovani italiani? Ma io penso che Into the Wild sia un film che risponda molto all'argomento. Into the Wild, ecco, è un film, ricordiamo, il film di Sean Penn, straordinario tra l'altro, che racconta di un giovane che se ne va nell'Alaska per vivere una vita diversa, lì fa un gesto senz'altro estremo. Ecco, cosa hai rivisto del tuo percorso dentro quel film? Praticamente mi è successo che io ho avuto un problema lavorativo, che mi sono fatto male sul lavoro, ho avuto di malattia, poi tornando hanno messo un'altra persona al posto mio. E quindi, come dire, non c'è stata la pazienza di aspettare, magari di valorizzare una persona. Allora, io ricordo a Rocco da Como che intanto si porta a casa un cofanetto Wazoo, 5 serate di grande cinema per andare a godersi il cinema in sala, che è sempre quello che noi consigliamo. E voglio far ascoltare anche, proprio al volo, l'avevamo preparata perché c'era venuto in mente Into the Wild, fra i film che hanno questo sapore, una scena del film di Sean Penn nella quale proprio si vive questo distacco del giovane protagonista, interpretato dall'esordiente allora Emile Hirsch, dalla sua famiglia, dalle convenzioni sociali appunto della società borghese americana. Sentiamo. Vogliamo comprarti un'auto nuova. Che bisogno c'è di un'auto nuova? La Datsun va benissimo. Io non voglio cose. È sempre tutto difficile. Non credi che dovresti trovarti un lavoro, fare qualcosa della tua vita? Ho solo un progetto. Me ne vado in Alaska. Alaska, Alaska? O la città di Alaska? Lassù, dritto, nel bel mezzo... Sì. Nella natura. Cosa fai quando sei là, quando sei in mezzo alla natura? Cioè, cosa fai? Cosa fai? Vivi, amico. Vivi, questo è l'imperativo. Un minuto ancora con Alessandro Dall'Atri, prima di dare la linea alla viabilità. Alessandro, il cinema italiano ha raccontato molto i trentenni negli ultimi anni, però non con il taglio che gli hai dato tu. Cioè, si è preferito un po' stare su dei trentenni impreparati alla società e non una società impreparata ai trentenni. Infatti, voglio dire, questo sicuramente c'era bisogno di farlo, mi sembra che si deve di aver fatto bene, bisognerebbe continuare a farlo, perché io ho molto a che fare con i giovani, sia attraverso il lavoro che faccio, sia con le scuole, gli incontri che fanno i seminari, non mi sembra di trovare tutta questa impreparazione. Io ho grande fiducia nei giovani e purtroppo sono solidale, devo essere solidale con loro nel maltrattamento che ricevono, no? C'è molto pregiudizio. Guarda, se tu pensi che a livello adesso planetario le più grandi invenzioni sono state fatte proprio da ragazzi che sono poco più che ventenni, parlo di Google, parlo di Facebook, parlo di tutte queste realtà che oggi vivono nella rete, oggi è lo stesso da dire quanti ragazzi italiani avrebbero avuto l'opportunità per poter arrivare a produrre tanto, no? Eppure ce li abbiamo i talenti. E allora con i talenti italiani che premono e che stanno telefonando, tra l'altro dicendo che si sono molto identificati proprio nel film La Febbre. La vita in un film. Ecco qua, 9 e 50 per 3. Qua verrebbe il bancone. Basterà. E come faccio la pista d'atterraggio? Qua invece no, è tutta no. Pedale. E la console? E la console è fuori, così non ci rompino qua. Prendete per il culo, ma la musica è il 50% di un locale. Vabbè, se è il 50% ci siamo già fottuti per metà. Guarda qua che progettino! Ma qui gira? Guarda, guarda, questa poi girerà, adesso fai conto, manca le luci, l'ho finita ieri sera. Questa sopra... è bellina, bellina. Qua è una figata. Vai. Ragazzi, avete chiesto il cambio di destinazione? Per i permessi ci vuole il contratto d'affitto. Conoscete qualcuno in comune? No, però insomma, dopo faremo le domande, quello che serve. Facciamo così, mi date 500 al mese, fino a che non aprite. E poi? E poi 1000, come abbiamo sempre detto. Signor Corini, facciamo 300. Ma signor Corini, ma si rende conto che tutta l'Italia parlerà di questo locale? L'entusiasmo che appunto va a infrangersi contro conoscete qualcuno in comune, ecco, quella frase è già emblematica. Nicola da Bergamo all'800 24 00 24, buonasera. Buonasera, io innanzitutto volevo complimentarmi con Dall'Altri perché ha detto delle sante verità e condivido appieno quello che è stato detto. Per quanto riguarda proprio il rapporto dei giovani, non solo i trentenni credo, anche qualche fascia di età più in là, perché effettivamente non è un caso che poi nella realtà molti giovani decidano di mettersi in proprio, di lasciare il posto in azienda o il posto pubblico proprio perché si sentono schiacciati, un po' come Fabio Volo nel film, che di fatto scappa dal suo posto pubblico. Grazie anche a Nicola, due biglietti da spendere in oltre 2000 cinema italiani. Alessandro Dall'Altri, sentivi appunto gli ascoltatori, si sono molto rivisti, hanno rivisto un pezzo del nostro paese dentro il tuo film. La chiave del realismo, quanto è importante per il tuo cinema? Ma sicuramente più che del realismo, della credibilità, nel senso che fare un cinema realistico e basta non è sufficiente perché diventerebbe solo documentarismo. Io credo moltissimo invece nel cinema come interpretazione della realtà e quindi lì c'è spazio per costruire anche percorsi e linguaggi, diciamo, che costruiscono l'intrattenimento. La cosa che mi sta più a cuore è la credibilità di quello che si mette in scena e credo che questo film, La Febbre, aveva degli elementi di grande credibilità. La domanda, come dicevi prima te, conosci qualcuno in comune, è purtroppo la domanda che tutti i giovani si devono porre o si sentono fare, conosci qualcuno. Questa è una filosofia che secondo me è un po' il cancro di questa società. Fino a che non si combatte questo modo di fare, credo che sarà molto difficile che questo paese riesca a salvarsi. Dicevamo di un cinema italiano che aveva riflettuto appunto su questa chiave, cioè su questa generazione che non riesce a trovare sbocchi, lo ha fatto anche in maniera intelligente e divertente, per esempio con un film che si intitolava Santa Maradona di qualche anno fa, nel quale anche in quel caso, con uno stile diverso sicuramente, però si ragionava attorno a questo tema, cioè a protagonisti che non trovavano uno sbocco e un ascolto soprattutto adeguato da parte della società italiana. Allora andiamo ad ascoltare una clip di Santa Maradona. Caro dottor straniero, mai come oggi la nostra azienda è in fase di implementazione delle risorse umane e c'è naturalmente un grande interesse per figure nuove e dinamiche. Però con un curriculum vitae come il suo, laurea in lettere, 107, nessun precedente lavorativo. Certo che non. Non? Non. Ecco, non si sa cosa, però una volta è appunto l'ostacolo è la mancanza di un curriculum adeguato, ma certo che se non diamo la possibilità di fare l'esperienza i curriculum non diventano mai adeguati. Ci sono anche alcuni SMS che mi segnalano che non riesco in questo momento però a leggere, ma non importa. Invece abbiamo delle altre telefonate all'800 24 00 24, c'è Sara da Milano, buonasera. Buonasera. Io chiamo Sara? Problemi telefonici? Ecco, è caduta la linea. Sara, allora cercheremo di ricontattarla in questo momento. Nel frattempo richiamo in causa Alessandro Dalatri, che è sempre in collegamento con noi da Fiuggi, dal Fiuggi Family Festival, prima di risentire Sara. Alessandro, c'è anche un altro aspetto, un'altra delle conseguenze di questo paese senza sbocchi e quindi di una generazione di italiani che poteva fare sistema, come si suol dire, per il nostro paese, ma che invece non lo ha fatto, è stata la fuga dall'Italia. Un'altra conseguenza è quella di un mercato del lavoro che a questo punto è diventato internazionale, e chi può e chi ha le capacità va all'estero. Assolutamente sì, questa è una perdita enorme per il paese, perché significa che le parti attive, quelle che potrebbero essere produttive per il paese, si disperdono completamente in questo modo. Ciò non detto, cioè, ma sono fortunati quelli che riescono a farlo questo, perché purtroppo altrettanti bravi ci sono e vivono nell'anonimato in questo paese. Io credo che bisognerà veramente rimboccarsi le maniche e fare qualcosa. Purtroppo questo è un progetto che chiama in causa la politica, e con questa politica in generale, non escludo nessuno, la vedo un po', non sono molto ottimista. Non è molto ottimista neanche, appunto, un ascoltatore che ci ha scritto a un sms al 349-238-6666, e si tratta di Marcello, che dice: ho già deciso, proprio ieri ho aperto una società all'estero e entro 2 anni vado via. Insomma, l'Italia diventa anche un paese da cui scappare. È un peccato, ovviamente, forse non è sempre il caso, però è certo che la lotta è molto molto dura. Noi abbiamo ancora qualche minuto, allora vogliamo fare un attimo un giro d'orizzonte su altri film che hanno più o meno trattato il tema di cui stiamo parlando, cioè questi trentenni tra disillusioni e speranze. Per esempio un film recente, anche poco visto, che può essere un consiglio di recupero, come Agente matrimoniale di Christian Bisceglia, che tra l'altro ha come protagonista Corrado Fortuna, che fu anche protagonista di My Name is Tanino, lo ricorderete, e anche in questo caso si racconta proprio di un ragazzo trentenne siciliano emigrato a Milano che a un certo punto perde il lavoro a Milano, a questo punto torna in Sicilia ma trova un paese che non riconosce più e del quale non riesce più a trovare una sua dimensione. Ecco, anche l'Italia è in un certo senso due paesi, o forse anche qualcosa di più. Alessandro, tu hai girato a Cremona il tuo film, hai notato, diciamo anche così per esperienza tua, una differenza? Cioè, se il tuo film fosse stato ambientato, che so, in Sicilia o in Puglia, sarebbe stato diverso? No, non credo, la tematica della febbre, la tematica comune a tutto il paese, da nord a sud, chiaramente poi con tutte quelle che possono essere le sfumature locali, no? Alcune realtà hanno maggiori difficoltà, altre ne hanno meno, ma credo che il problema è comune. Oggi il problema non è più andare a Milano o stare a Palermo, il problema, come diceva quell'ascoltatore che ti ha scritto poc'anzi, è andarsene via da questo paese. E allora a questo punto abbiamo in linea un'altra ascoltatrice, Monica da Padova. Buonasera Monica. Buonasera a voi, grazie di avermi chiamato. Allora, come al solito. La sua esperienza, ecco, proprio partendo da questo film La febbre di cui stiamo parlando, ma anche da questo tema di un'Italia ingenerosa verso i suoi giovani, ecco, qual è stata? È stata molto semplice. Io sono stata per 17 anni, ripeto 17, borsista presso un'azienda ospedaliera, l'azienda ospedaliera della mia città. Mi sono diplomata, specializzata, laureata, dottorata e tutto. Dopo 17 anni ho chiesto se si poteva fare qualcosa, dato che io non conosco nessuno proprio come si richiede, e mi hanno detto ma vedremo, e dopo 17 anni ho deciso di lasciare e di andare ad un'attività commerciale, sempre nel mio settore, ma sicuramente non come ricercatrice, ecco. E quindi diciamo un paese anche in questo senso che non l'ha soddisfatta, da cui si è sentita un po' creditrice in un certo senso, no? Contenta di quello che ho fatto, perché l'esperienza che ho fatto di quei 17 anni sicuramente mi serve, mi è servita e tutto, però obiettivamente non era il mio sogno nel cassetto, ecco. Adesso sono altrettanto contenta di quello che sto facendo, anzi, da un certo punto di vista mi chiedo perché non l'ho fatto prima. Ci sono 2 biglietti per il cinema anche per Monica da Padova, che ringrazio. C'è in linea anche Cesare da Torino, allora ascoltiamo anche Cesare. Buona serata. Buonasera. Cesare, allora, cosa si può fare per uscire da questa impasse con questo paese? Bisogna cambiare radicalmente quella che è la politica degli ultimi 40 anni, perché la prima cosa da fare è quella di distruggere in maniera oggettiva e soggettiva l'attuale sistema politico, perché l'impasse dei giovani, delle loro idee, delle loro iniziative deriva proprio dalla politica e da quei vecchi presupposti che fanno del nostro paese un paese burattico a livelli globali. Io parlo per me, per la mia esperienza, parlo per l'esperienza di altri giovani che ho conosciuto, cioè la voglia di fare è tantissima, la voglia di anche di identificarsi in questo paese, di progredire è tantissima. Ma grazie, grazie. Allora Cesare, dobbiamo andare di corsa perché abbiamo ancora solo un minuto e lo spendiamo con Alessandro Dalla. Prima di salutarlo, Alessandro, un minuto per raccontarci il film in cui tu invece hai rivisto un pezzo della tua vita. Ma guarda, il cinema, sicuramente il cinema italiano che mi ha fornito moltissime opportunità, e rimanendo nell'argomento, un film che amo moltissimo è Una vita difficile. È un film che ci fa capire da dove nascano le radici di questo malessere che oggi noi stiamo consumando, ma che ha percorso molta strada. A chi non l'ha visto, soprattutto ai giovani, lo consiglio molto, dove c'è un Alberto Sordi straordinario. E allora, con il consiglio di Alessandro Dalatri, grazie per essere stato con noi in collegamento da Fiuggi e in bocca al lupo per il tuo prossimo film. Crepi il lupo e in bocca al lupo a tutti i giovani italiani pieni di talento e ancora non ascoltati, speriamo per poco ancora. Grazie Alessandro Dalatri, noi chiudiamo qui la nostra puntata della vita in un film. L'appuntamento è sempre a domani alle 18 qui su Radio 24.